Vendo tutto di Matteo Caccia. Fino ad oggi ho venduto 86 oggetti, ho tirato su più di 4.000 euro e ho realizzato un desiderio. Manca un mese e mezzo alla fine e ho ancora un sacco di roba da vendere. Quindi, olè, vendo tutto! La mia ragazza mi ha lasciato dopo 4 anni insieme. Lo so, capita, succede a tutti e stavolta è toccato a me. Io però ho deciso, mollo tutto e me ne vado. La mia vita di seconda mano è in vendita, io ne inizio una nuova, venite a comprarvela. La vendita è aperta. Oggi vendo una cassa portacose. Non so esattamente cosa sia una cassa portacose, detta così sembra, è una cassa in bambù. Andate subito a vederla a radio24.it oppure sul profilo di Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, sono le 16:08 minuti, quasi 9, è arrivato decisamente il sole, si sta benissimo a Milano anche se c'è un vento che sembra di stare in Corsica, più che di stare in pianura padana, ma oggi parliamo di rapporti difficili tra padri e figli. Difficili, per modo di dire, di rapporti tra padri e figli e dell'incomunicabilità tra padri e figli. Quindi padri che avete qualcosa da dire ai vostri figli, non avete il coraggio di dirglielo, tenete pronto il cellulare e ricordatevi questo numero 800240024 oppure 349-238-6666. Ieri ricevo questo messaggio, lo ricevo sul profilo Facebook. Mi abbassi un po' la base, Paolino, che... Da Chiara, mi scrive Chiara. Oggetto del messaggio è: mio babbo è l'ossessione e passione per Matteo Caccia. Aiutaci. Caro Matteo, sono Chiara, ho 24 anni e a casa mia da qualche tempo succede questa cosa. Tutte le sere, da un mese a questa parte, mio padre Gabriele viene a tavola con il suo portatile e ci fa assistere per tutta la cena alla tua trasmissione registrata nel pomeriggio. E non può volare una mosca, tutti in religioso silenzio. Insomma, non ci perdiamo una virgola delle tue avventure. Non parla d'altro ultimamente mio padre quando vuole interagire con noi. Ecco che cosa fa ogni sera. Ci fa prima un breve prologo. Ci racconta la storia che puntualmente lui ha già ascoltato e ride come un pazzo di tutto quello che racconti. Credo si sia anche appassionato alla storia tra te e Giulia e credo che in cuor suo desideri che torniate insieme. Parentesi, temo che gioirebbe più per quello che per la mia laurea. Chiusa la parentesi. Il succo è che gli piace davvero tanto. Per cui ti prego, aiuta me e mio fratello in questa missione. Parentesi, fratello che si chiama guarda caso Matteo e che ha una ragazza che si chiama Giulia. Mio babbo ha riso 2 giorni quando lo ha saputo. Insomma, salutaci nostro babbo in diretta, anche solo 5 secondi, così mentre saremo a tavola una sera all'improvviso mio babbo si troverà spiazzato e noi saremo davvero divertiti nel vederlo scioccato. A presto, Chiara da Riccione. Eccolo fatto, è una cosa che di solito non faccio di salutare perché la gente semplicemente non me lo chiede. Non è come si chiamava quella che è la sorella di DJ, Federica Panicucci, metti sul disco e adesso salutiamo Carlo da Taranto. Non l'ho mai fatto, però questo messaggio era meravigliosamente tenero, nel senso che c'è una gran voglia di Chiara di stupire il padre. Però prima in redazione si è creata una sorta di riunione spontanea sul fatto che quando lei scrive ultimamente non parla d'altro quando vuole interagire con noi. È chiaro che c'è un piccolo problema di incomunicabilità tra papà Gabriele e Chiara e Matteo, i due figli. E quindi, padri all'ascolto, fai così, toglimi completamente la base perché questo è un momento importante. Padri all'ascolto, spesso scapita più devo dire tra i padri e i figli che non tra le madri e i figli, perché le madri prima o poi anche male, però le cose te lo dicono, perché guarda che alla fine ti ho sempre voluto bene anche se tu facevi quella faccia lì. I papà invece no, i papà non tutti, però alcuni papà fanno proprio fatica a dire, ma anche stupidaggini, anche solo guarda sono orgoglioso di te, sono contento, boh, che ti sei laureato, che hai una fidanzata simpatica, alla fine guarda hai fatto la scelta giusta anche se non era la mia, insomma anche solo banalmente ti voglio bene, i papà fanno un po' più fatica a farla. Quindi una mano sul cuore e una sul cellulare. 800240024 oppure 349-238-6666, ma preferisco dalla viva voce dei padri italiani all'ascolto. È arrivato il momento di dire a vostro figlio quella cosa che non gli avete mai detto. Forza, coraggio, gliela dite e poi magari fate come poi Gabriele. Stasera gli portate il portatile a cena e gliela fate sentire. 800240024, solo per i padri che devono dire qualcosa ai loro figli, perché per un motivo o per l'altro, boh, non si sa, non gliel'hanno mai detto. Veniamo all'oggetto di oggi, perché poi comunque, anche se non c'entra, tutto c'entra. È una cassa di bambù che contiene degli oggetti, anche se io la vendo vuota. Per vederla a radio24.it, per sentire la sua storia, eccoci qui. La cassa di bambù. Cassa porta oggetti, materiale bambù, colore marrone chiaro. Dimensioni, lunghezza 98 cm, larghezza 55 cm, altezza 60 cm. Leggermente rovinata alla base da unghie di gatto. Perfetta per contenere oggetti da nascondere o di cui ci si vuole dimenticare. Valore commerciale 46 euro, base d'asta vendo tutto 99 centesimi. Per informazioni e foto www.radio24.it. Per la diretta 800 24 00 24. Vendo per volontà di liberarmi di tutto. L'oggetto che vendo oggi è stato comprato per uno scopo ben preciso: contenere dei giocattoli. I giocattoli di un bambino che un giorno mi ha chiamato papà. Ok, mettiamo le cose a posto. Allora, sapete che prima di incontrare Giulia ho avuto delle storie, no? Come tutti, insomma. Quella con cui però non ho ancora fatto i conti è stata la storia con Chiara. Io e Chiara ci siamo frequentati per un po' e una parte del suo fascino era data da quel vago senso di mistero che solo le donne riescono a costruire, senza parlare, proprio con dei silenzi. Mentre eravamo a cena, si assentava ogni tanto pensierosa e poi tornava sorridente, presumo dopo aver fatto una telefonata. Per me poteva essere di tutto: una spia, avere un'altra relazione o anche essere un'alcolista anonima. In realtà non volevo scoprire nulla di più di quello che mi stavo vivendo. Poi, non contento di quello che avevo, e cioè incontri fugaci in giro per la città, scopro dove abita e decido di farle l'improvvisata. Voilà! Ecco, una cosa che ho imparato, chiaramente sulla mia pelle come tutti, è che le improvvisate non si fanno mai, a nessuno. Sempre meglio una bella telefonata prima. Insomma, arrivo a casa sua, suono il campanello e quando si apre la porta compare un bimbo di circa 4 anni, che poi scoprirò chiamarsi Matteo, come me. Matteo, il figlio di Chiara. Insomma, il grande mistero di Chiara era un bambino avuto da una precedente relazione. E le telefonate di nascosto erano un saluto prima del sonno notturno, fatte dalla mamma al proprio bimbo. Difficile la vita sentimentale di una ragazza madre. Lei era imbarazzata, cercava in ogni modo di scusarsi, come se ci fosse stato qualcosa di cui doveva veramente scusarsi. Certo, questo effettivamente cambiò le cose tra di noi. In effetti l'esistenza di Matteo sulle prime mi terrorizzò. Ma dopo mezza giornata passata a pensarci su, mi affascinò terribilmente. Da lì tra me e Chiara cominciò un periodo quasi magico in cui io giocavo alla famiglia felice, con tanto di weekend in montagna, gite al parco, pizza a domicilio, pausa in zona scivoli. Io leggevo il giornale sulla panchina e davo un occhio al mio omonimo. Chiara ogni tanto mi lasciava quando aveva delle commissioni urgenti. Lei era felice che questo non ci avesse allontanato e proprio per questo era particolarmente affettuosa e premurosa. Insomma, la donna ideale. Nel pacchetto famiglia ci stava anche che io facessi dei regali a Matteo. Non fu difficile scegliere cose che potevano piacere ad un bambino di quell'età. In fondo erano poco differenti da quelle che ancora piacciono a me, oggi. Piste di trenini, palloni di gomma piuma, arco, frecce, aeroplani a batteria, fucili e pennarelli colorati. Un paradiso. E alla fine erano talmente tanti che comprai questo contenitore di bambù, quello che vendo oggi. Perché le cose belle vanno contenute, altrimenti rischiamo di scappare. He waited and he waited for the cat to come around. 97 pieces of the man is all that they found. But you know, the cat came back the very next day. The cat came back. They thought he was a goner, but the cat came back. He just couldn't stay away. Give me a meow, go. Scappare era il verbo più usato da Chiara. Era il verbo più usato quando era di cattivo umore. Lei era scappata dal padre di Matteo e poi era scappata dai suoi genitori che l'avevano giudicata male. Scappati in qualche modo erano anche i suoi amici, che per vari motivi non le erano stati vicini. E infine, scappare era anche quello che pensavo avrei fatto io. Che mi sarei stufato di quella situazione, me ne sarei andata. Lo diceva con dispiacere, quasi con rassegnazione. Un misto di emozioni che mi mandava in bestia. Così mi arrabbiavo e le dicevo che mi sentivo offeso dalle sue parole. E lei sorrideva. Stavo bene con Chiara. Poi un giorno eravamo ai giochi mentre lei era a consegnare un lavoro. E Matteo, per un attimo, mi chiama per essere aiutato a scendere dallo scivolo e mi dice papà. Io mi volto verso di lui e penso, questo però non è mio figlio. Ecco, e lì mi prese il panico, tutte quelle cose tipo che ci sto a fare qui, come si fa a giocare alla famiglia felice. Insomma, io quel gioco lì non lo sapevo fare. E allora l'ho aiutato a scendere dallo scivolo senza cadere. Poi l'ho abbracciato e l'ho baciato come se non ci fosse stato domani. Forse perché quella era l'ultima volta che lo vedevo. Aveva ragione lei, e non ce l'ho nemmeno fatta a dirglielo. E dopo che l'ho riconsegnato a Matteo, sapevo che non l'avrei mai più rivista. Da quel suo sguardo sapevo che l'aveva capito anche lei. Insomma, forse è brutto da dire, ma alla fine credo di aver fatto la cosa giusta. Non ci siamo più cercati, e per me rimane ancora un punto di domanda. Però io non ero il suo papà, ero solo uno che giocava alla famiglia felice. Ogni volta che rivedo questa cassa, che non gli avevo ancora consegnato, mi viene un po' di magone. Ecco, questa è una cosa che non ho mai detto a nessuno, e dirlo oggi un po' mi costa. Vendere questa cassa forse mi aiuterà a superare, o forse a capirci qualcosa, io non lo so. Io so che avrebbe dovuto contenere tutti i giochi di quel Matteo che mi chiamava papà. E invece, oggi, la vendo. Perché vendo tutto. Il suo valore è di 46 euro. La base d'asta, 99 centesimi. Se avete voglia, papà di tutta Italia, di dire qualcosa a vostro figlio che non gli avete mai detto, 80024 0024. Just need to get minuti, anzi quasi 21, questa era di 24. Io sono Matteo Caccia. Allora, diamo un po' di dettagli intanto. Come al solito i brani, visto come lo chiedete, sono sul sito. Poi, visto che arrivano anche domande, qual è il brano che apre la sigla del programma? Il brano è un brano di Otis Taylor e si chiama 10 Million Slave. Comunque anche quello credo ci sia scritto da qualche parte. 80024 0024. Invece per tutti i padri d'Italia che hanno voglia di dire qualcosa al proprio figlio che non hanno ancora detto, ripeto, per mille motivi. Prima spiegavo che per le madri probabilmente è più facile, no? Perché alla fine la madre un modo lo trova, no? Un modo lo trova. E invece il padre no. Il padre ha sempre dei momenti di imbarazzo e ci sono dei piccoli squarci di verità che ogni tanto arrivano, giusto? Per cui dice, glielo dico, sì, glielo dico. E poi invece non arriva. Quel momento di verità forse invece è arrivato. Pronto? Salve, sono Gabriele, telefono da Rimini. Ciao Gabriele, buongiorno, scusami. È la prima volta, sono un ragazzino, ho 55 anni, sono super emozionato. Benissimo. Intanto provo a cercare la linea, questa volta si vede che veramente era destino. Ce l'hai fatta, sì. O forse molto velocemente... semplicemente Gabriele, forse è comunque difficile dire delle cose, no? E quindi il papà all'ascolto fanno un pochettino di fatica a chiamare. E penso che questa mia telefonata comunque susciterà qualche problema. Io praticamente ho una figlia da 9 anni che non ho praticamente quasi mai visto. Sì. Mia moglie non mi permette da un anno di vederla, pur essendo qua a Rimini, certo. Di sapere alcunché. Non so se basta. Quindi tu, Gabriele, Gabriele, più che altro avresti voglia di vederla questa figlia, anche oltre che di dirle qualcosa. Ti do del tu, io sono assolutamente, dammi del tu, cioè. Immagina. Lo immagino. Sento persone che hanno voglia di fare figli, di avere una famiglia. Io l'ho avuta e ho avuto questa figlia meravigliosa che si chiama Angela. Ecco, infatti, ok, si chiama Angela. Donna, però nonostante tutto, nonostante la legge sull'affidamento congiunto che ho ottenuto, nonostante sia stato, lo dico sperando che molti mi sentano, certo, un marito perfetto, un padre perfetto, io non so più quasi nulla della mia bimba. Guarda Gabriele, guarda, io volevo semplicemente sentire delle cose dette ai figli, però credo che la tua telefonata valga più di qualsiasi cosa detta. Ti auguro, grazie. Ti faccio più grande in bocca al lupo Gabriele. Grazie. Ciao, grazie. Alla prossima, ciao. Grazie. Ciao. 80024 0024. Andiamo dopo Gabriele, andiamo da Giampaolo a Genova. Pronto Giampaolo? Ciao. Ciao, come stai? Abbastanza bene. Senti, tu tua figlia la vedi? Ma no, non le vedo assolutamente. Io ho 3 figlie che praticamente da diverso tempo vedo pochissimo. Perché sei separato anche tu? Sì, questa legge è tremenda, le vedo una volta ogni 15 giorni. Mm-hmm. E praticamente le figlie non crescono con te, neanche più con me. Quanti anni hanno? 12, 10 e 8 anni. Ah, ne hai 3 addirittura? Sognavo una bella famiglia e poi lei ha detto è finito tutto e questo mi mancano tantissimo, vorrei dire. Senti, ma Giampaolo, scusami, tu riesci a, quando le vedi, e le vedi appunto una volta ogni due settimane, mi pare di capire, sì, riesci a dire loro tutto quello che vorresti dirle, oppure no, perché poi andiamo a mangiare una pizza, facciamo una cosa e le cose accadono più veloci di quello che vorresti raccontare? Non si riesce a nulla, non si riesce a trasmettere affetto, non si riesce a neanche guardarle negli occhi. E allora guarda Giampaolo, facciamo così, una cosa al volo che vuoi dire alle tue figlie in questo momento? Penso che sia inenarrabile il dolore di un padre che non possa crescere le proprie figlie. Va bene Giampaolo, credo che il messaggio sia arrivato, ti ringrazio molto e in bocca al lupo anche a te. Grazie. Buona giornata, ciao ciao. È una marea di emozioni che arriva addirittura direttamente nello studio oggi, ammetto che era inaspettato. Andiamo però a Napoli da Luca. Pronto Luca? Pronto, ciao Matteo. Ciao Luca, tu sei in una situazione simile agli ascoltatori di prima oppure... No, fortunatamente no, infatti penso di andare un po' contro tendenza. Ah no, figurati, vai semplicemente hai voglia di dire una cosa a tuo figlio o a tua figlia. Sì, ai miei figli, ne ho due, un maschietto e una femminuccia. Che quanti anni hanno? La femminuccia ha quasi 7 anni, il maschio 3. Ok, e cosa fanno? Sì. Sono già a scuola? Sì, vanno a scuola tutti e due, sono diciamo vivaci, soprattutto il secondo. Senti, però sono la gioia. Tu che cosa fai Luca? Fai il consulente? Bravo, l'ho pensato quando t'ho chiamato, consulente assicurativo. Ho detto, quindi hai... Matteo indovina, è la trasmissione dei consulenti. Sì, quindi hai un sacco di tempo libero per loro. Non tantissimo, però posso organizzarsi. Ok, cioè li vedi la sera banalmente, però poi vanno a letto presto. No, magari. Non vanno a letto tanto presto. Ah, ok, però... tu vorresti spedirli a letto presto. A volte non ti nascondo che si desidera un po' di tranquillità. Però... Lo immagino. Senti, tu hai voglia di dirgli una cosa anche semplice in diretta oggi oppure... Che sono la ragione per cui esisto. Luca, grazie mille e buona giornata. Grazie a te Matteo. Ciao. Arriva un sms che dice: cerco sempre di dire le cose al mio piccolo tesoro, anche una semplice ti voglio bene, ma la cosa più bella me l'ha detta lui. Un giorno mi guarda e mi dice, aveva più o meno 4 anni, tu sei mio papà, mio fratello e mio amico. Che lacrime. Ale da Milano. Grazie a tutti, prima che cominciamo a piangere tutti quanti qui in studio. Io ringrazio quelli che hanno chiamato, gli auguro ovviamente tutte le fortune più grandi. Laura Faggin, Tiziano Bonini, Alessandro Genovesi, Stefano D'Andrea e Paolino Corleoni. La cassa è sul sito, come al solito, radio24.it, oppure su Facebook Matteo Caccia Vendo Tutto. Domani vendo un corso di francese. Voi invece non prendetevi delle casse per accumulare oggetti, perché alla fine sono sempre e solo oggetti. Love, love, love. Where